Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. In apertura oggi torniamo a parlare della piattaforma logistica nazionale, uno strumento fondamentale per razionalizzare e rilanciare la logistica del nostro paese, recuperando le posizioni perdute nel corso degli anni a causa della burocrazia, del groviglio normativo, dell'incrocio perverso delle competenze. Realizzata da Wirnet per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la piattaforma mette in collegamento diretto tutti gli attori del processo logistico, interconnette ogni passaggio. A pieno regime garantirà significativi risparmi di tempo e di denaro a favore della competitività del comparto e quindi dell'intero sistema paese. Da qualche giorno è il porto di Genova il primo scalo ad essere collegato alla piattaforma. La scelta non è stata certo casuale. Nell'area portuale del capoluogo ligure è movimentato oltre 1 milione di container e ogni giorno transitano in entrata e uscita più di 4.000 TIR. Cosa significa per il porto di Genova il collegamento alla piattaforma logistica nazionale? Lo abbiamo chiesto a Marco Sanguineri, direttore pianificazione e sviluppo dell'autorità di sistema portuale Mar Ligure Occidentale. Per il porto di Genova significa entrare in un sistema più ampio, appunto, in un sistema nazionale che consentirà agli operatori del porto di Genova di entrare in diretto contatto, per esempio, con le basi logistiche interne, migliorare i rapporti con le ferrovie, consentire quindi a tutti gli operatori, attraverso un sistema di informazioni più efficiente, più diffuso rispetto a quello attuale, di migliorare i livelli del servizio, ridurre i tempi, dare maggiori certezze, maggiori informazioni alla clientela, alla fine ridurre i costi, migliorare il servizio anche per la collettività, perché avere informazioni precise tra i punti di destino di origine e il porto significa, per esempio, limitare certamente gli effetti di congestione sulle grandi infrastrutture, quindi impatti ambientali minori rischi anche di incidentalità. Quindi è un sistema che ha effetti positivi per l'intero sistema logistico, ma anche per tutti gli utenti, per esempio, delle grandi infrastrutture, soprattutto stradali in questo momento. Il porto di Genova è già dotato da tempo di un sistema gestionale, il Port Control System, che a questo punto migra nella piattaforma logistica nazionale. Ma per un autotrasportatore cosa cambia? Sentiamo ancora Marco Sanguineri. Un operatore dell'autotrasporto è in contatto direttamente con il terminalista e quindi può organizzare l'appuntamento merce e mezzo, quindi con grandi risparmi di tempo e anche evitando disagi, per esempio, agli autisti che devono altrimenti passare del tempo magari in aree di sosta in maniera inoperosa. E collegandosi adesso anche con i sistemi, i centri logistici interni, significa diffondere questi vantaggi che oggi sono concentrati nel porto di Genova anche in punti di destino, perlomeno dove ci sono dei punti di destino organizzati come gli interporti, le infrastrutture logistiche, oltre al fatto che tutto il percorso dell'autotrasportatore può essere reso, diciamo, trasparente anche alla clientela, dando quindi ancora di più un servizio più affidabile, più credibile alla domanda. La polemica di questi ultimi giorni riguarda il contributo che gli autotrasportatori devono pagare all'autorità di regolazione dei trasporti. Sin dall'istituzione dell'Authority, gli autotrasportatori contestano questo obbligo e sull'intera vicenda da tempo pende un ricorso alla Corte Costituzionale. L'aumento del contributo ha scatenato reazioni piuttosto dure, tra queste quella di Conftrasporto. Sentiamo il presidente Paolo Uggè. A nostro parere la legge che ha istituito l'Authority non prevede la possibilità che le imprese di autotrasporto debbano essere assoggettate alla vigilanza dell'Authority. Ci sono ben due lettere, una del sottosegretario De Caro e poi un'altra del ministro Lupi, che ribadivano questo concetto. Hanno deciso di incrementare il proprio organico per fare che cosa, non lo so, però non mi riguarda. E per coprire questi nuovi costi hanno deciso di chiedere contributi alle imprese che fatturano fino a 5 milioni, abbassandole dal limite precedente che era 30, veramente non è sostenibile e non è ricevibile. Quindi innanzitutto chiederemo, abbiamo già chiesto al ministro Delrio un intervento che definisca una volta per tutte questa vicenda. In secondo luogo, così come è stato fatto in Piemonte, lo faremo presso il TAR del Lazio, chiedendo appunto di sospendere questa delibera e attendendo il parere della Corte, il pronunciamento della Corte Costituzionale. La manovra correttiva dei conti pubblici chiesta all'Italia da Bruxelles non conterrà misure a carico del mondo dell'autotrasporto, come invece era sembrato all'inizio della scorsa settimana. Sentiamo ancora Uge. Noi abbiamo preso immediatamente posizione l'altro giorno con un comunicato stampa, a cui il giorno dopo ha fatto seguito la dichiarazione del ministro Padoan, col quale assicurava che per quanto riguarda l'autotrasporto si continuerà ad applicare la regola prevista dalla direttiva comunitaria che consente la compensazione per le imprese di autotrasporto sull'accisa che eccede il valore in vigore al 31 gennaio 2001, quindi voglio dire di fatto verrebbe congelato per il settore dell'autotrasporto e aspettiamo di vedere concretizzato questo suo impegno. Per il mondo dell'autotrasporto un'altra questione rimasta sul tappeto è quella della decontribuzione per gli autisti impegnati nei trasporti internazionali, un provvedimento inserito nella legge di stabilità 2016 ma poi rimasto al palo. Nel corso di questi mesi le associazioni di categoria hanno continuato a sollecitare un intervento da parte del governo per seguire la direzione intrapresa e quindi creare condizioni di pari opportunità per le imprese nazionali penalizzate dalle differenze dei costi operativi con i paesi dell'est, differenze che hanno squilibrato pesantemente il mercato. Sulla questione della decontribuzione abbiamo intervistato il direttore generale della tutela del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Romolo De Camillis. Decontribuzione per gli autisti impegnati nei servizi internazionali, l'Europa ha detto no. Beh, in realtà sono state fatte delle valutazioni, intanto io, come dire, interne al nostro paese, e prima che l'Europa dicesse no, perché in realtà sarebbero state concesse in violazione di norme che non consentono di erogare questi aiuti in maniera selettiva e questo avrebbe esposto le imprese al rischio di procedure di restituzione e di recupero da parte delle autorità nazionali che evidentemente hanno solo effetti, poi sono contraccolpi ancora più pericolosi per le imprese. La possibilità è eventualmente di muoversi entro i limiti che la Commissione europea consente, che evidentemente apportano però alle imprese benefici minori e che però, proprio perché sono benefici entro una certa soglia, sono riconosciuti a livello comunitario. È evidente che gli sforzi maggiori andranno indirizzati verso un confronto che si svolgerà a livello europeo tra tutti i paesi e la Commissione, perché lì le regole siano riviste in termini più ampi e quindi anche quei paesi che oggi beneficiano di condizioni di maggior favore per i contesti nazionali di riferimento possono invece trovarsi di fronte ad un quadro più stringente che quindi consenta di restituire alle nostre imprese quella competitività che va riconosciuta a chi appunto da anni ha investito in questo settore. Qualche regola ci sarebbe anche, c'è un problema di controllo in questi ultimi tempi, peraltro l'organizzazione dei controlli è cambiata. Sì, il tema di razionalizzare e organizzare meglio i controlli è un tema sicuramente importante. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che diventa pienamente operativo, potrà rappresentare un interlocutore particolarmente qualificato. Poi certo i controlli andranno programmati con particolare riferimento ad alcune zone del paese dove magari c'è un maggior traffico e con criteri selettivi, perché così potranno magari restituirci anche effetti significativi e quindi ritornare in termini, come dire, di miglioramento delle condizioni generali. In chiusura un flash sulla vicenda dei trasporti eccezionali, molte province di fatto fermi per la mancata concessione delle autorizzazioni dopo il crollo del cavalcavia ad ottobre ad Annone e Brianza. Ancora sabato scorso in Container, il nostro programma di approfondimento, il sottosegretario Simona Vicari ha annunciato una direttiva che, partendo dal rispetto della normativa vigente, stabilirà indicazioni omogenee su tutto il territorio nazionale, superando così la situazione di stallo determinata dal rimpallo delle competenze. Contemporaneamente si lavorerà ad una revisione generale della regolamentazione dei trasporti eccezionali con una mappatura delle varie infrastrutture stradali. Con hashtag Autotrasporti oggi mi fermo qui, grazie per l'attenzione, noi ci risentiamo lunedì 13.45, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Hashtag Autotrasporti. in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.